Ho avuto modo ieri, non ho predicato a voi, ma ho avuto modo ieri di dire che il periodo pasquale è molto più ricco del periodo natalizio. Perché mentre tutte e due hanno una preparazione di 40 giorni, l'Avvento e la Quaresima, la continuazione dopo la festa per il Natale è breve, una decina di giorni. Per la Pasqua va avanti per 6 domeniche. E quindi io avrò piacere di spiegare a voi, insomma, di annunciarvi tutta la ricchezza o gran parte della ricchezza che il periodo pasquale ha. Ieri sottolineavo che è stata una donna la prima testimone della risurrezione di Gesù. Oggi devo ribadire il concetto. Sono ancora le donne che entrano in scena. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Vorrei soffermarmi un momentino su questo, proprio per ringraziare Dio per la presenza delle donne non solo nella vita, ma dentro la vita della comunità cristiana. Le donne vanno loro, non gli uomini, perché la donna è più decisa, altro che il sesso debole. La donna è molto più decisa nelle sue scelte. Ci vanno loro al mattino, anche se dicono chi ci rovescerà via la pietra dal sepolcro, no? Sono più decise e sono persone più piene di fede che non noi maschi. Questo è indubitabile. La fede viene conservata, viene trasmessa soprattutto dalle donne. Basta che vediamo la vita nella comunità e vediamo la vita dentro le famiglie nostre. Per questo io ringrazio il Signore e chiedo anche a tutti voi, sia donne ma anche uomini, di pregare il Signore che cresca grandi donne di fede. Grandi donne di fede, perché la fede la trasmette la donna. Se noi riflettiamo, chi ci ha insegnato le preghiere in casa nostra? La mamma o la nonna? Papà, sì, qualche volta, ma è difficile. E non sono stati neanche i sacerdoti in parrocchia che ci hanno insegnato le preghiere. Sono arrivati dopo i sacerdoti, ma prima arrivano le donne, come qui al sepolcro. Prima arrivano le donne. E il concetto è tutto qui, amici. Noi dovremmo, se abbiamo nipoti maschi o nipoti femmine, pregare per tutti, ma pregare in maniera speciale per le ragazze. Perché la vita sia della famiglia sia della comunità è in mano veramente alle donne. Tra l'altro, è una battuta, ma è vera. Campano più a lungo di noi uomini. Se controlliamo il Gazzettino Padano chi ha compiuto i 95 anni, sono tutte donne. È una battuta, ma è la realtà. La donna veramente ha una grande forza. E del resto qui gli uomini fanno una brutta figura, gli uomini. Queste donne tornano a casa, abbiamo visto degli angeli che ci hanno detto che Gesù è risorto, chiacchiere di donna, rispondono, e non ci credono. Per fortuna noi maschi siamo salvati un po' da Pietro, il solito Pietro, che peccatore, ma deciso. Qui vediamo fin da adesso che Pietro sta acquistando nella prima comunità degli apostoli un posto di rilievo. Perché? Perché è più generoso anche lui. È la generosità, amici, è la decisione che ci fa camminare. Lui si alza e va a constatare e torna a casa. Lui non ha la visione degli angeli, però torna a casa pensieroso. Concludo questo piccolo accenno invitandovi a unirvi alla mia preghiera, a pregare per le suore. Le suore sono donne e svolgono un ruolo nella comunità straordinario. Se noi guardiamo i paesi di missione, i missionari possono fare molto, ma se non ci sono le donne, se non ci sono le suore. In più parlavo con alcune suore, io voglio molto bene alle suore perché proprio per questo motivo che sono in prima linea e mi dicevano che nel meridione d'Italia, almeno questa è la testimonianza che mi davano, anche quando c'è un ambiente mafioso, le donne hanno più libertà di movimento che non i maschi. Le donne possono entrare nelle case, possono muoversi con più libertà, possono svolgere il loro ruolo di accoglienza, di cura. Ecco, purtroppo anche le suore sono in profonda crisi di vocazione per alcuni aspetti, più che non i maschi, più che non i sacerdoti. E allora, se siete d'accordo con me, oggi preghiamo per le vocazioni femminili, le vocazioni femminili sia in casa sia nella realtà consacrata. E concludo con un proverbio che probabilmente mi sentirete dire tante volte, perché è un proverbio bellissimo e a me molto caro. Dice questo proverbio che se tu educhi un bambino, tu cresci un uomo. Ma se tu educhi una bambina, tu cresci un popolo.